aprire bocca come arresi ad un silenzio che riempie questa stanza, annegati dalla noia, in preda a questa voglia di sparire. Restiamo sotto le coperte, ormai coperti di ricordi, primavera andata a male, angoli di mare, spalmati sul pane dell'altra marmellata di ciliegie. Piaceva tanto camminare in pieno inverno con addosso solamente i nostri abbracci grandi, grandi una talvolta e sempre all'improvviso grida il cielo. Mentre tu ancora mi accarezzi ricontandomi i capelli ad uno ma non torna il conto e neanche il tempo, versami un caffè e spiegami il perché di questo freddo. Pace di promesse, fra i coltelli e le parole, abbiamo usato tutto, armi a doppio taglio, per farci meno male del previsto. È vero, ho perso qualche chilo e tu troppe occasioni per essere felice, riprenditi le spalle, mi porto via soltanto un piatto rotto, un po' di primavera.